Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La battaglia di Roma, di e con Pierpaolo Palladino. Musiche di Pino Cangialosi. Suoni eseguiti dal vivo da Maria Teresa Martuscelli. La battaglia di Roma, di e con Pierpaolo Palladino. Musiche di Pino Cangialosi. Quando che fummo schierati in fondo al Camerone, lì tra le brande ancora intonse, uno di faccia all'altro, lì, col cuore in gola e l'occhi persi, lì nessuno, possa morire d'un botto fulminato, nessuno ci seppe di domani ancora sentirete batter mezzogiorno d'oggi. Quella era la speranza fissa, quella era il sonno che ci serviva a tirare il fiato. Ma mai fino a quel punto s'era infilata nell'anima la pena a distruggere fino in fondo quell'ultima illusione. Fu il capitano a rompe quel silenzio. Addice col tremito nel tono: soldati, disse, domani c'è battaglia, menate giù le mani, ma pregate Dio che arrivino pure l'anglo-americani. Castro Pretorio si chiamava la caserma nostra. E già il nome risonava gesta antiche dei pazzi centurioni che andavano a menare le mani in faccia ai barbari invasori. Ma mo che li cornuti spignevano alla porta, a noi toccava di sotto a chi tocca. Poi tutti stesi nella branda, l'occhi fissi a guardare il soffitto, nella luce riflessa del piazzale, sognavamo il letto de casa. E lì, nel silenzio generale, anch'io pensavo alla mia. Dietro all'angolo, giusto in fondo al quarticciolo. E dai a rigirarmi sul saccone, a pensare, ma com'era mai possibile ad essere ridotto in sto cantone? 3 anni prima Erduce ci invitava a nozze con la bella impresa d'entrare in guerra a fianco di quel pazzo col baffetto. Poi le botte, e aiutami a dire quante eravamo prese. Infine arrivò Badoglio, corduce carcerato e sulla festa. Poi no, che festeggiate, banda di minchioni. La guerra continua ancora. E poi eccoci qua, l'armistizio l'8 di settembre e la chiara sensazione che i tedeschi ci direbbero a volta faccia, a finta boni. Ma che ve credete che noi ci fate maravoi e manco ve menamo? Ma noi siamo crucchi, mica francescani. Ma pregate la Madonna, soldati belli, che mo scendiamo a Roma, ve chiudiamo dentro al Coliseo e ci famo tornare i leoni, che già se leccano i baffoni. Questa, te dico, era la situazione fino a sto momento. Il Papa pregava in Vaticano. E Roma era città aperta, ma gli americani, buoni quelli, già ci hanno bombardato San Lorenzo. E a noi, che siamo granatieri del terzo reggimento, possiamo ridere un botto fulminato. A noi tocca difendere Roma, sia dai crucchi che da lì cowboy, col cappellone al vento. È bello poi è che sia l'uni che l'altri sono tutti i nostri alleati. O meglio, li tedeschi fino all'altro ieri, ma quest'altri mo, e che è già da domani. Una cosa era chiara, non ci si capiva un cazzo, ma meglio è combattere da soldato che di salute Arduce che è ritornato. beato era Alfredo Cerasoli, detto Marca Visita, granatiere de anni 23, ferito in Grecia e congedato, ma però sul più bello richiamato. E da allora tutto Marca Visita. Ma per farsi mannare a Roma, dietro casa, lontano, via dal fronte, fino a quel 10 luglio, poraccia a lui, quando casa sua è bombardata, lì, vicino alla stazione, proprio lì a San Lorenzo, come le altre della povera gente. I genitori, morti. La sorella, chissà dove, sfollata, via, via, via, in campagna. Con la morte dentro al cuore e in capoccia un pensiero fisso. Io Marco Visita e salvo la pelle, che tanto a combatte, non ci si guadagna niente. Alfredo era d'accordo col tenentino, era medico di turno, come se ci avesse la licenza di convalescenza già pronta dentro la tasca del calzone. Domattina me ne vado, mi fa 10:30 bocca. Marco Visita davvero? E ve saluto. Ma non fece mica in tempo, che manco sortì il sole su nel cielo e già fummo cacciati giù nel piazzalone. Davanti 6 camionette pronte a partire per non si sa dove. E sì che era settembre, ma la paura smuove i brividi d'estate come d'inverno. E il freddo qua a mattina scendeva giù nelle mutande. Sor capità, io sto male assai, la ferita a me si sta a rimpone, fece Alfredo. E capirai ai crucchi che gli frega, gli risponde il capitano. Quelli fanno un dogoio goio. Ma io la guerra l'ho combattuta già lì, in mezzo ai monti. E mo la ricombatti ancora, per difenne casa tua. Forza, ragazzi, in marcia! Roma s'affida a voi! Che siete la sua meglio gioventù! Povero Alfredo, casa sua. Non gli bastò la forza per rispondere. Si mise fianco a me sopra al camion, stretto nella mano il suo fucile, pensava ogni momento al primo intoppio faccio al vento, che per me la guerra non esiste più e vaffanculo tu e la meglio gioventù. Insomma, come fu e come disse, s'aprì la cancellata e uscimmo fuori nella strada desolata. Tetri, bici. E peggio ancora, noi parevimo tanti condannati nel silenzio generale. Eppure il cielo era bello, per chi ci aveva cuore di guardarlo. L'alba chiara s'affacciava e con la luna faceva comunella. A casa mia ci sta un terrazzo che s'affaccia sopra i tetti. Mamma mia, sia storia è bello, guarda cupole, uccelletti. Sullo sfondo del cupolone e tutto intorno l'angioletti. Ma la strada ora è sconnessa, che imboccamo Tiburtina. Pensavamo di andare al fronte, ma lì subito frenamo. Che spettacolo ci appare tutto intorno. Sono le ombre desolate, dei ponarime acciaccate. Sono le donne in due piegate che s'addannano a sentire le voci umane. Qui si scava, piacendo a Dio. Forza, uno per uno, date una mano a sta buona gente. C'aveva un tono il capitano che noi gli potevi dire di no. Te puntava lui dritto sul naso e sul muso suo leggevi la fermezza del comando, la paura del momento e la tragedia che aleggiava senza scampo come la nebbia del vialone. Ci divide a due per due per spostare certi mattoni di una casa ormai crollata, sotto al quale soffia la voce. Ai, aiuto! E due donne, ecco, s'addannano come fossero vulcani. Ma noi pure se buttiamo a dare la mano. Forza, Alfred, damogli sotto! Finché un pezzo di muraglia crolla dritto avanti a noi. La Madonna! È il polverone! Alfredo! Alfredo, sei cascato! Alfredo! Tra la nebbia che dirata, io vedo Alfredo che mi guarda. Povero Cristo incuglionito, i capelli bianchi di carcina. pare un vecchio di 100 anni. Che me fa, dice, è finita, Franceschi. Solo il silenzio c'è sotto di qui. Il silenzio fu improvviso, stretto in bocca alle due donne. E già il capo c'è comanda a ritornare sopra al camionne. Ma un altrullo se ripana libero stavolta dal nebbione. Un pertuso si è aperto appresso al crollo e il sepolto, come a Lazzaro, sorte fora ancora in tonso. Guarda, è vivo! Urlo io. Ma a guardarlo, moro Cristo, era peggio di un ecce uomo. Tutto arruzzonito e col barbone, la camicia nera appiccicata sotto la carcina. Pareva il fio di Belzebù. Se guarda intorno spaventato, mentre le due donne inviperite la chiappano per i capelli. E che l'er fascista se ne scanneva giù in cantina. L'uomo stralunato biascica: io sono docente, io con i fasci non c'entro niente. Manco male che sei vivo, gli fanno quelle. Ma te insegniamo noi a denunciare la buona gente. E lo strucinano a sede su una cariola. E poi da lì fino a dietro un muricciolo, che quello ancora prega. Ma io non c'entro quel puzzone. Ma piava ordini. E da quando l'hanno arrestato poi non sono più sortito da casa. Camerati, agli aiuta, quando state! Io faccio per scendere giù dalla camionetta, ma il capitano mi blocca con un gesto della mano. Poi da dietro il muricciolo un grido secco e niente più. Fa il motore nel silenzio, la carriola spunta ancora dal muretto. L'occhi sbarrati del cadavere ci fissano smarriti, insieme a 4 fanelli con l'aria truce. Ser capita! Sto puzzone c'aveva pure la bagliaffa, e carica, e può sparare. Che ci porta pure a noi, ser capita? Ci porta pure a noi, ser capita! E il capitano, assai stranito, sbatte il piede e urla: a cosa? Intanto che il camion si riavvia e i ragazzini attaccano a cantare. Allarme coi fascisti, terror dei comunisti, para para para para para, e s'allontanano sulla strada col trofeo ancora callo, come fosse in processione. Un boato rompe il cielo dritto dritto dai castelli. Ecco, il fumo sale in alto, su i tedeschi giù affrascati col comando generale. È da lì che arriva il male, de sti barbari invasori che ci tocca da fermare. Poi giù ancora della via, su tutti i cumuli e rovine che l'aereo americani non sono stati lì a guardare. Ma distante con lo sguardo sull'Alfredo, mo sorride. L'occhi pesti per le lacrime. La sua casa, ecco, la vede. Mamma! Babbo! Ma che fate? Andate dentro che mo arrivo! Nuccia, aspetta! Se te sporchi la gonnella, sai poi mamma che combina, eh? Capitano, io sono arrivato, eh! Ferma, autista! Ma andiamo! Poi svoltammo a Piazza del Verano e non fermammo il bastimento. E lì Alfredo si risveglia tra gli sguardi dei noantri, ancor più storti e impressionati. A Franci, che ci credono mo che sto pazzo, eh? Mi fa Alfredo. Perché? Infingevi? No, Franci, io davvero li vedevo. E torna a ride, perso, dietro alle infinterie del sentimento. Sì che anch'io mo sento un canto che mi giunge dallo sfondo, oltre il muro, lì, dal camposanto. Un clarino, un violoncello, prende il posto al malumore. Chissà quando arriverà il momento, quello mio. Ma è giusto poi andarsene così, in braccio alla morte, alla gommare secca, quella col farcione, quella che libera i poracci e straccia il cuore ai più felici. È giusto, dico, levasse dal monno senza aver ancora conosciuto quello che è nel monno poi l'amore. L'amore quello vero, universale. Quello che ogni creatura, figlia di Dio, dovrebbe assaporare. Nasce, cresce, ama. Questo vuole dire la parola vita. Questo ti distingue dal tira a campà. La vita senza amore è come sete nel deserto. È l'amore, l'acqua vera che ti seta dentro al cuore. Nasce, cresce, ama. A nasce, nasce. A cresce, cresci. Ma l'amore, quello vero, te lo devi andare a cercare. E se non l'hai trovato mai, la morte si vergogna di portarti via, che mica te può levare così dal mondo. Che se la vita non l'hai vissuta mai, perché non sei ancora nato, la morte, la gommare secca, quella col farcione, ma che campa fa? E allora te lo chiedo a te, morte mia, se sei degna di sto nome, se sei quella che pare il mondo all'ingiustizia, se sei quella che livella e mette pace, quella che te fa giace sotto un fiore, se è vero, com'è vero il detto antico che nessuno può dire domani ancora, sentirò batter mezzogiorno d'oggi, io te lo chiedo a te, morte mia, fammi vivere fino in fondo quest'ultima giornata, dammela tu, te prego, quest'ultima occasione. Potrebbe far qualcosa per l'amichi, per Alfredo, almeno lui. Fosse che oggi, almeno, dentro all'incubo più nero di sto mondo sovvertito, dentro al giorno del diavolo che balla, dentro a starsura che inturcina i budelli e non fa respirare, fosse che oggi, almeno, nell'ora del giudizio universale, troverebbe la forza per soddisfare una volta almeno sta sete di pace, d'amore, di serenità, prima di mollare l'ormeci e abbandonarmi anch'io all'onde del destino. Sarza forte adesso il rombo dei camion incolonnati. Io mi sveglio e guardo intorno. Stiamo pronti per partire. Una vecchina s'avvicina. È una zingara del ghetto. Tutta storta, anturcinata, con la bocca bianca dentro all'occhio e le rughe sotto al mento. A vederla fa impressione. Manco fosse a cavaceggio di una scopa di saggina. Nel tremore della mano momma allunga una boraccia. Sono venuta a darti l'acqua, che quest'acqua è benedetta. Se tre volte te la bevi, per tre volte tu te salvi. Ma che davvero, sornonnina? Ah, ma non fate come a quelli che te vendono illusioni per due soldi e una mappina. La speranza, mi fa quella guardandomi nell'occhi con la piacca di sua. La speranza è cosa pura per chi ha cuore di cercarla. Bevi, campa e stringi i denti che la fine arriverà. Ma se voi, sora nonnina, ne volete dire il futuro, non trovate più clienti, che il futuro qui non c'è. Ma la bocca sua stentata mo pronuncia una sentenza. Per tre volte tu te sarvi, per tre volte soffrirai, per tre volte incoccerai la durezza dell'amore. E nel mentre che gli chiedo come mai parlava strano, e chi gli avrebbe detto mai che era quello che pensavo? La vecchia è già sparita. E da solo mi ha lasciato sta boraccia tra le dita. Io la guardo assai stranito. Se non fosse mo per questa, si direbbe che ho sognato. Ma c'ho sete. Dio, che sete! La tracanno! Ah, è fresca, sai. E mi è morto verso Alfredo. Ti, Alfredo, pensa a bere. Ci bastasse un sorso d'acqua per riaccendere la speranza. I boati sul Nercello ce li portano al presente. Stiamo sempre incolonnati dietro camion e gipponi, mentre un gruppo di civili si riunisce sul piazzale. Pure noi stiamo a venire, armati, siamo a di pure incazzati. E il capitano gli va incontro, e con altri graduati in circoletto si dispone. Baccagliano quei civili, non si viano sul che fa. Chi fa un gesto, chi alza la voce, sbuca fuori un colonnello che piglia fuoco e sbotta. Tutti a Porta San Paolo! E via, se va. Dei compagni che con me dividevano la sorte. Bordin era il più alto, er cispadano, er tiratore scelto, alto, smirso e coglionato braccio a lui. Una era la cosa che gli avevano promesso, di mandarlo a San Donà, lì su, sul Piave, che per noi è allo sprofondo del Triveneto, ma per lui è casa sua, quella in dove è nato. Poraccio già nasce in quel vallone, Ci raccontava che tale era il nebbione certe volte, che la gente lì a casa sua andava in giro col cane lupo, come i ciechi, che tanto era uguale. Eppure Bordin preferiva il nebbione dell'assù che veder popolo de sta Roma incarognita, de sta gente coglionata dal re Fugone e dal maresciallo suo Badoglio. Un pirlun testa de caso! Parlava poco il Bordin, ma quando apriva bocca erano siluri. E poi poi ci stava pure Asciuna, dottor Ricefalo sul mondo da Salierna. Asciuna, che a chiamarlo Sor Cafone era un complimento. Pare che l'ultimo bagno che si fecero in famiglia sua fu quando li bersaglieri qui a Roma ancora dovevano entrare per Porta Pia. Nessuno che fosse uno lo capiva quando parlava, ma lui a capì, capiva volo, ed era così sverto di mano e di riflesso che lo misero a lavorare nel genio sabotaggio. Capirai, dice, che facevi prima di finire militare? Io, e facevi l'altro. Era un bravo compagno, Rosario Ascione, onesto, con amici, ma che non sapendo bene l'italiano pretendeva, mo che in testa se l'era anche ficcato, che tutti lo chiamassero non Ascione ma proprio Sor Cafone, come titolo de merito. Tutto il contrario manco a dillo del compagno suo de Branda, Mazzarò, il professorino de Palermo, che poteva cantare la messa anche in latino e recitare rosari come fossero stornelli. C'aveva una voce Mazzarò, ma che era? Era un fringuello. Ma sapeva pure i canti americani lui, i spirituali, quelli che cantano gli negri, e che diceva che astora lì nel sud, a casa sua lontana, fianco a fianco all'alleati, cantano già tutti quanti felici e liberati. Sor Cafone l'adorava, gli avrebbe fatto lui contro canti, se non fosse che mentre l'altro a voce piena assai cantava, quest'altro qui, Cafone, al massimo, ruttava. Poi, a pensarci, ce n'erano dei compagni, Lino Erbussola, Ligas, lo Sposino, tutti sfumati nel fondo del ricordo. Ma quei tre che ho già citato erano i compagni d'avventura. E con Alfredo erano quattro, quelli tosti dentro al petto. L'ultimi a salutare vicino al letto, prima di chiudere l'occhio in camerata. l'unica a cui confidà col cuore in mano. Stamme vicino, che c'ho paura di arrivare fino al mattino. Ecco di nuovo i boati in processione. Le fiarate di fumo sorgono dagli castelli. Sono ruggiti dell'inferno. Ma la strada per San Paolo ora è già più trafficata. Le sirene dei pompieri corrono via da altre strade. Chissà il nemico che lo sfuga prima, se a San Paolo come gli Unni o a Pontemollo come i Visigoti. Ah, l'importante è farsi forza, mette via i tormenti e mostra loro i denti. Ma perché il re era sparito? E Badoglio? E tutti gli altri generali? Fuiti via da Roma a salvare la pellaccia loro, senza manco il tempo di portarsi indietro e di viva l'Italia! E che desta città, non basta slunga il collo per vederlo. Sui viali dell'impero, mo impera solo fame. E la fame, quella tosta, stai sicuro non c'ha onore. Ecco, ecco infatti le pie donne, tutte quante in fila, avanti a un forno. Dai, aspetta, che muore! Mi marito sta in galera! Io c'ho tre figli, da sfamare! Ma il fornaro aprì non vuole, c'ha paura dell'assalto. Si riserva il pane callo verso il crucco che verrà. Io non posso darvi niente, che le tessere sono morte. Con sta storia dei sussidi già mi stanno a rovinare. Ah, Puzzone, apri l'uscio! A che c'è mai fa crepa qua? Boom! Una granata per risposta scoppia al vicolo dell'A. Ma la coda non si sfalda, sbanda solo sotto al muro. Anziché la sala fila, preferiscono morire. Forza, gente, tocca a noi! Fa il capitano Corvucione. E stavolta siamo uniti a correre incontro alle vie donne. A fornaio, apri il portone che la gente ha da magnà! Ma Simmo, apro sto portone, me se magnano anche a me! Simmo, apri, garantimo per la tua incolumità! Ma Simmo, nessuno paga, come faccio io a campare? Insomma, mentre andava in scena sto duetto tra il fornaro e il capitano, una voce urla chiara: Erfanna, si è aperta la sala! C'è sta un buco, venga qua! La granata era stata ad aprirsi quel portone su nel retro de bottega. E nel giro di un secondo, ecco il forno che si svuota. L'occhi affranti del fornaro mi facevano pietà. Tutto si sono piati. E mo qua che resto a fa? La granata era tedesca. C'hai diritto alla vendetta. Pia il fucile e via a combatte. Che così non ce puoi sta. Poi il capitano gli allunga un fucile e punta il dito in fondo al viale. A San Paolo sarà il nemico. Vedi un po' quel che poi fa. Lui l'afferra un po' intontito e poi riflette là per là. Io già al piave ho combattuto e mio figlio è morto in Libia. Ma se devo morire male, tanto vale crepa qua. Poi, con gesto misurato, giusto in bocca un colpo spara e il suo corpo cade in terra, senza di né a né ba. La piazza di San Paolo è larga e prona, a petto ai muraglioni. Fuori porta, un trav abbandonato e armato di mitraglia. E i battaglioni dei Caramba e Granatieri sono già schierati a spina di pesce sull'Ostiense, infino ai mercati generali. Dentro porta, invece, stanno i carri armati dei Noatri, che a petto ai panzer tedeschi sono poco più che scatolette. Ma stretti l'uni all'altri fanno finta da essere forti, pronti a farsi bersaglià. Pure in pizzo alla piramide c'è sta un mitra già puntato per sparà. Alfredo se dà una guardata intorno, smiccia la tenda da un'infermeria da campo vicino alla posta centrale e sturba a terra. Fa lo svenuto. Io e Bordin capimo al volo. Capitano, capitano, il collega qui si sente male. Portatelo alla tenda. i vigliacchi ci fanno solo perdere tempo. Io e Bordin saltammo giù, ecco Alfredo sotto braccio, lo portammo lì, al tendone. Tra i feriti insanguinati e le bende improvvisate dalle sore dei conventi che si stracciano le vesti per la fregola de fa. S'avvicina una suorina che ci guarda un po' intontita. E mo che c'ha quest'altro qua? Non c'ha forza de combatte. Lo dovete perdonà. Dio perdona tutti quelli che non vonno più sparà. A suor Pia lassamo Alfredo, ma Bordin, che allunga il naso, smiccia un milite, un ignoto, che dal sangue che gli cola di sicuro ha combattuto. E gli pone la domanda se per caso regge al fronte. Quello manco gli risponde, abbassa l'occhi e attacca a piagne. Che Bordin gli via le spalle, se l'appoggia sopra il petto, poi lo bacia tra i capelli e gli dice: amore bello! E io riguardo mo Bordin. A dir vero sono sorpreso. Lui mi guarda stralunato, pia fiato e me fa: ostia! A sto nome familiare pure Alfredo si ripia. Apre l'occhi e me sorride. Ci sta il mare in fondo a Ostia. Me portate fino a là! Io lo guardo e poi sospiro. Ricordo. C'è sta un bagno lì nel mezzo, noi ci andavo con Cesira. La domenica mattina si poteva anche ballare. Se ballava la donna, ci potrebbe pure andare. Beh, noi per mo, che fo dico un po' contrito, alla guerra tocca andare. Ma più tardi poi torniamo. E va a finire che se beccamo. Testo a di che ritorniamo. Ah beh, allora io aspetto al mare, E se indorme la bella. Per ordine del capitano siamo così dislocati. Giù al piazzale, dentro al tram, Sor Cafone e Mazzarò belli, tosti alla mitraglia. Fermi, in cima alla muraglia, sono i compagni in forze armate che gli coprono le spalle dall'attacchi del nemico. Sia dalla piramide che dal lato de San Sabba stiamo ben posizionati, lesti e pronti a sparare a fuoco sopra il fianco di ogni barbaro che se possi presentare. E fu l'attesa. Ma come fommo io a spiegare lo strolicato della capoccia, gli straveri dell'anima, quando le minuti che passavano erano macigni di Sisifo e tutti guardavamo all'imbocco di via Ostiense come al fiume dei Caronte. Erimo lì, sospesi, tra la croce di San Pietro e il martirio di San Paolo, potendo passare la storia o scomparì nel burone della guerra. 15 secoli che Roma non veniva conquistata dal sud. 15 secoli e toccava proprio a noi difenderla. Tu vedi la scalogna, Io pensavo all'antichi, l'ultima volta che videro arrivare li barbari cornuti, con l'occhi de fora per lo sturbo de conquistare la Caput Mundi. Ma quest'altri qua, perché si credevano di via? Dar papa ai galeotti, tutta la città era stremata dalla fatica del campare e s'aggrappava a noi soldati. Tutta un'unica preghiera per un fasse bastonà. Ma nel mentre che i primi carabinieri si ritirano correndo e altri della benemerita partono all'attacco per coprire la ritirata, una folla dei romani s'avvicina muro muro. Uomini e donne, giovani, vecchi, e il popolo romano corre lesto appresso a noi. Certo, contro i crucchi siamo pochi, ma è bello vedere che a Roma, la città del chi muore giace e chi vive se dà pace, in sto giorno benedetto tutti! Uomini, donne, giovani, vecchi, tutti con un'arma in pugno, ma fosse pure nonno Checco con lo schioppo o nonna mia col mattarello, tutti quanti asti nazisti maledetti gli vorrebbero menà. Uno in particolare è tosto e coraggioso, si chiama Raffaele Persichetti, detto il professore, ex granatiere, de anni 28, arto come una pertica e a capo di una squadra dei civili armati con fucili vecchi del 1891. Ecco, si rivolge al capitano e gli fa dice: ce l'ha data il generale Carbone, dicendo che queste sole ce poteva dà. Eccole le belle armi che hanno usato panna in guerra, fucili del 1891, e ci hanno fatto pure la campagna di Russia. Ora c'è chi c'è ido. Persichetti protesta, dice che vuole armi nuove per darci una mano a combattere. Gli rispondono che non se può, che le armi servono tutte a noi altri e che è meglio se tornano a casa, se si vogliono salvare. Manca a dirlo, Persichetti si rifiuta. E vedendo i granatieri che già mirano a sparare, tosto va all'attacco con cent'altri indiavolati, sparendo, divorati fra li fumi e li boati. E noi, sor capità, ma quando sparano? Non ancora, sono troppo lontani, se devono avvicinare fino al piazzale. Ehi, soldato! Una voce mo me chiama da dietro al muraglione. Oi, soldato, ascolta! È una ragazza, ci avrà 20 anni, una fanella biondina, carina, che pare l'inglese, che me fa dice: l'amico tuo, Alfredo, te porta l'acqua per rinfrescarte. Io riconosco la boraccia della zingara, quella che m'apparve lì al verano, quella storta, intorcinata, con le rughe sotto al mento. Riconosco la boraccia e la sete mi ripia. Scendo dalla ragazza, bevo e poi gli fo: tieni, bevi pure tu, come ti chiami? Quella beve e poi mi fa: Carla Capponi, e sto qui per dare una mano. Ah, Carla Capponi, ma non c'hai paura di sta qua? No, voglio combattere come a voi. E tira fuori una pagliaffa che solo a vederla a mano a lei mette paura. Ma questa è la pistola di Alfredo? Sì, me l'ha data lui per voi, che mi spieghi come usarla? Io provo a prendere la pistola e gli dico dolcemente: Carla, va a casa, che qui so rogne. Ma lei non se la fa pia. Bordin me urla di tornare su, che i crucchi arrivano. Quella mi stringe forte le braccia al collo e mi fa dice: sto con voi, sto con voi. Poi invece corre via con l'arma a pugno. Io che dovevo fare? Torno su con la boraccia da divide con quell'altri, ma nessuno pensa a beve, che appena in cima vedo tutti col fucile già puntato e il capitano un braccio alzato resta teso come un gatto quando punta l'esto del sorcio che da fora deve uscire. In quel mentre, tutta un botto, la battaglia si fermò. Sì, davvero, non c'erano più gli spari, le fiarate, l'urla disperate, non c'era più nell'aria la morte col farcione e nemmanco le corse a mozzafiato per cercasse da servà. La battaglia era sospesa nel silenzio che regnava, solo un sibilo nell'aria come un canto a primavera, manco fosse una preghiera o una nenia. Oh mia patria, si bella e perduta. E Mazzarò, che santifica il momento, e nel mezzo del piazzale, tra le mura, i San Pietrini, ogni milite che ascolta gli sussurra: così sia. Poi sangue di Cristo si arriva al botto, si voltava a guardare dietro e dell'infermeria da campo non ce resta manco l'ombra. Alfredo, no, Alfredo! Ma non c'è tempo da pensare, che mo sbuca sovrumano proprio il panzer che ha sparato. È invincibile e possente nel suo passo rotolato, schiaccia il monno tutto intero mentre avanza su di noi, e quel cazzo suo d'acciaio gira intorno dominando, manco fosse il sombo Giove che se vuole divertì. Vattenna fangula, gli risponde sor Cafone mentre spunta dal tramvai con una mina per le mani da ficcaglie dritta al culo. Spara Mazzarò con la mitraglia da dentro del tramvai. Spara per coprigliono le spalle, sparamo noi come dannati dalla cima dei muri per fermare quel mostro vero. Ma il sor Giove ora si gira, lesto, tosto, piglia la mira. E del tramve, poveretto, resta solo una rovina. Scoppia, brucia, indi s'abbatte. Ciao decore, Mazzarò. Ma nel mentre che nel carro solo i crucchi stanno a ride, sotto al culo del bestione Sor Cafone si è infilato e preciso come un gatto già la mina gli ha azzeccato, poi risorte e attacca a core per fuggire la peggio sorte. Corri, corri Sor Cafone, che si corri fino a 10 vorrà dire che sei salvato. 2, 3, 4, 5. Ciao decore Sor Cafone. L'esplosione poi che segue ferma il passo allo straniero. Il cannone del Sor Giove gli s'affloscia sul serciato e il falò che mo la brucia segna il fine d'ogni guerra. Mo d'ammazza, ammazza a me tutti morti. E poi, perché? Il perché non c'ha più senso. Che i compagni stanno in festa, la paura ci fa ride per pericolo scampato. Come il cavaliere al drago che la testa gli ha mozzato. Siamo vivi e tanto basta che la morte ci ha scansato. Io e Bordin se guardiamo. A Bordì, sei tutto sano? Lui mi guarda spiritato, trema come l'ha dannato. Quindi scatta, vanno a cogliere quel che resta del Cafone. Ma a puntarlo col fucile già ce pensa il capitano. Se tu scendi, sei già morto. Tanto vale che te sparo. L'altro esita un momento. Poi capisce e torna al posto. Ecco un'altra bella cosa che la guerra ha regalato. Non fai a tempo a morir male che già sei dimenticato. Ma Alfredo, non lo scordo. Dio, ci penso ogni secondo. Me lo vedo sulla spiaggia, che mi chiama pure a me. Sta nell'acqua sotto al sole, gioca ai tuffi e si diverte mentre aspetta il cavallone, l'onda lunga che sommerge, poi le danze con le donne e la musica che va. Una mano mi risveglia, ma chi è? Alfredo. Alfredo, ma non eri morto? Ma vaffanculo, moridea, oh. La risata che c'è mia sbraga tutta la muraglia, tutta ride come affessi. Alfredino, sono morto e hai coglionato. Dai, e spiega, ma come hai fatto? E come ho fatto? Sono sortito dalla tenda per cercare quella biondina. Gli ho dato la pistola, che per me non c'è più quella, eh. Ma quell'angelo furbetto mi si è presa anche la boccia, con quell'acqua della vecchia, quella buona, che disseta. Per fortuna l'ho inseguita. Poi l'ho vista lì con te, lei m'ha visto e via, si è data. Poi la botta, il buio, la fine. Ma non era l'ora mia. E mo infatti, e chi me qua? E mo infatti, pia e bevi, che la boccia, eccola qua. Se un momento tocca a ognuno essere felici per campare, beh, sto per noi, brindare alla vita che c'è sta, via per culo anche la morte, quasi che abbia la l'idea se potesse tornare a casa. Ma il nemico poi si sa, non c'è niente da farite, e già partono all'attacco li parate al terzo Reich. Il sorriso ci si spegne e la bocca resta aperta per urlare col cuore in gola, li mortacci quanti su. Dai, guarda il capitano. Solo lui saprà il momento che ci tocca da sparà. Ora sguaina anche la spada, come fosse un centurione. Li tedeschi, eccoli a tiro. Fuoco, fuoco a volontà. E il fumo fa la nebbia. Li spari son migliara. Poi scendemo a baionetta, col fucile già spianato. Carica. Parte i colpi. Uscita l'aria, spazio il primo, sparo all'altro, quello muore, questo è addosso, danza tutto sale, ecco ancora, dai, e zozza, sbatti a terra, hai un lampo, non respiro, c'è addosso, no, non moro, struscia via! via! Se ne vanno, tornano indietro. Se guardamio, se contamio, qui ci tocca indietreggiare. Se contamio, se guardamio. E Bordin non sta più qua. È passato a meglio sorte. Ma coperto, non lo so quando. Si è ammazzato lui per me. Sotto a lui c'è sta un biondino con la svastica e l'elmetto. Sei sottorti dalla vita, senza disse poi perché. Ciao, Bordin. Poi te raggiungo, che pur io sono già ferito. Oh, Alfredo, te sei vivo. Guarda il sangue che mi esce. So dolori dal costato. Sarà forse anche de striscio, ma io non posso camminare. Lui mi guarda e poi mi dice: non te devi preoccupare. Lì giù in fondo mostro i nostri che ci coprono le spalle. Forza! Tutti al foro di Traiano! Urla forte il capitano, che però sembra intontito. Lì provamo a organizzare una linea e poi se vede. Alfredino su me tira e Carponi se ne andiamo. Mo te porto a casa mia, me fa dice col sorriso. Ma già dietro ai fori augusti una colonna ormai ha sfondato. Sono i tedeschi che alle spalle dentro un cerchio ci hanno chiusi. Lesti e riccio se serramo, nel momento della carica noi provamo a stringere il ferro come legionari al fronte, stretti dietro i loro scudi. Ma li crocchi sono un leone che s'affila la zampona per pappaccia in un boccone e le casse anche il baffone. Non ci resta che fermasse, butta all'arma, arza le mani. Ma Alfredo sembra vede la faccina della bionda che gli dice: fiette qua, fiette qua. Una barriera dai civili è difesa un po' più in là, da ogni angolo opportore, non importa sia uomo o donna, tutti fermi, con armi in pugno, stanno pronti per sparare. C'hai presente quel momento quando il cane punta il gatto e ogni pelo è sotto tiro per decidere chi è che muore? Solo i crucchi, solo la gente, siamo noi. Chi per primo attaccherà? Basta un segno, un gesto, un vento, e il momento si decide. Urla ognuno al suo compagno: carica! E via, se va! Come un pazzo con Alfredo, come un pazzo io vado dietro, arrancando in mezzo ai fuochi, parte di colpi, salta nei cristi, rotola il fiato, struscica l'aria, spanza al primo, spara all'altro, quello amore, questo è addosso, una mattanza, tutto sangue, ecco ancora, taglia e zozzo, sbatta a terra, hai un lampo! Poi rallento e tiro il fiato, che nessuno a noi ci vede, com'è vero che ero là, eravamo ormai invisibili. E cammina, e gira intorno, stava in mezzo alla battaglia, vedo corpi che si spaccano, ma nessuno pensa a noi, stiamo soli tra le belve, camminiamo dentro a un film. Questa è l'acqua della zingara, siamo salvi noi, altro che, come ha detto quella vecchia, per tre volte abbiamo bevuto, per tre volte ci ha salvato, per tre volte sola morte ci ha scansato. E alla fine se trovamo dietro ai cespugli lì de Massenzio, alle spalle de noartri la battaglia ancora in furia a suonare l'ora finale, e tra il giorno e ormai la notte la visione è senza età, come fossero mill'anni che si stanno a fare la guerra. È la febbre che mi sale, e lo stravede del momento mostra daghe de legioni, lancia bighe de centurie. Li romani si difendono con l'aquila sua in testa, poi so corazze de crociati e cavalli intabarrati, so i lanzichenecchi in massa, poi i francesi, i bersaglieri, 2000 anni de invasioni e la febbre in cima a tutto, e quell'acqua più non basta alla sete di noi due. Sto a morire, vero Alfred? No, tu no. E per me ormai è finita. Alfredo s'allontana dal cespuglio in dove l'ha annascosto al mondo intero, a me m'ha annascosto, che una voce a lui già lo chiama. Un tedesco, il braccio armato, punta dritto in faccia a lui. Dietro della pianta io vedo solo le sue mani dritte e alzate. Poi si volta a petto a me ed il volto suo sorride. Mo a casa vuol davvero? Sembra di me a cor leggero. No, Alfred, Alfred, non mi dica stai a morire! Come un fiore che si posa, il corpo suo a terra scende, a petto all'arco lì presente, del gran popolo romano. Già la sete mi rovina. Mosso solo come un cane. Come un cane indifferente che la vita ha stramazzato. Come un povero italiano che la storia ha condannato. Da lontano i miei compagni già hanno rotto la divisa. Tutti a casa! E chi non può? Mora in fretta finché può. Ma se in fondo alla poraccia giusto un sorso mo è rimasto, io lo bevo e penso a Alfredo, all'amore suo per me, che la sete m'ha levato. Tutti intorno vedo i fumi, ma non sento più i suoni. Sento solo ora una voce, forte e chiara. È Mazzarò. La sua voce per canto, forse è l'angelo che chiama. Certo, allora è proprio vero che la morte è cosa dolce e chi più non ci ha pretese. È la porta della pace che si apre sul del là. Marzo ancora e segue il canto strascinando ormai la gamba e la voce che mi guida mentre un crucco solitario già s'avanza. Brilla forte con l'elmetto nel tramonto che cancella ogni timore. Io lo vedo, lui a me no. E davanti al Coliseo, lì si ferma innanzi ai buchi, prono ai piedi della storia. E lì si guarda intorno assai ammirato. Wunderbar, non ce lo crede. Urla, sbraida, lancia l'elmo, piagni forte della gioia. Non mi vede mica il crucco tra le fratte sopra il colle, quello bello in dove le coppie una volta ci facevano l'amore. Non mi guarda mica il crucco tra i fiori sopra il colle che m'appoggia una mitraglia abbandonata da due giovani italiani stesi morti sotto al sole come a tutti quanti noi. Non mi vede mentre punto ora il mirino e poi mi fermo. Sì, mi fermo e canto anch'io. Lui mi guarda, punta lesto la pistola, apre il fuoco e salgo in alto con quel canto nella mente, con i fori sotto agli occhi, poi l'altare della patria, i palazzi del potere, il Quirinale, il cupolone. In alto sopra i tetti de borgata, su testaccio, su garbata, mo sui campi intorno all'archi, sui sorcioni sopra l'Appia, la campagna profumata manco fosse primavera. Fino al mare me ne volo, fino all'onde friccicanti, al sorriso de Alfredino che mo gioca sulla spiaggia, ride, scherza, pia la palla. Stavo insieme in mezzo all'acqua e corremo a perdifiato verso il sole che ci bacia, verso l'orizzonte arioso. Indo la vecchia con le rughe appese, indo la vecchia con la biacca dentro all'occhio, indo la vecchia ritta in piedi già ci aspetta col farcione a mostrarci ora il cammino. ma una voce mi richiama lì, da dove sono partito. Torno ancora in mezzo al campo, steso a fianco alla mitraglia. E proprio lì me la rivedo, quella bionda coraggiosa e la giovane Capponi, che sorride su di me, mi sussurra: sto con te. E in quell'ultimo frammento, mentre brilla il suo sorriso, quello dolce, luminoso, mentre sento le sue labbra come acqua zuccherina e una ciocca dei capelli mi carezzano le dita, m'abbandono dolcemente e svanisco fiducioso tra le onde del destino. Dal vivo da Maria Teresa Martuscelli. Battaglia di Roma, di e con Pierpaolo Palladino, musiche di Pino Cangialosi, suoni eseguiti dal vivo da Maria Teresa Martuscelli. L'agenda della settimana teatrale. Con Francesca Corona, co-direttrice della 15ª edizione di Shore Theater a Roma, dal 4 al 13 settembre 2020. Ben trovata. Buongiorno, ben trovato a te. Spieghiamo a chi non conosce Shore Theater di cosa si tratta. Shore Theater è un festival multidisciplinare che esiste a Roma da 15 anni, quindi quest'anno festeggiamo un anniversario importante, che si occupa in modo prevalente di performing arts, ma anche di tutte le alleanze possibili con l'arte visiva, l'attivismo e la teoria. Come si caratterizza questa edizione? Beh, ha tante caratteristiche, diciamo, contestuali e interne. Innanzitutto, oltre all'anniversario che dicevo, quindi fare un compleanno comunque determina un atteggiamento di un certo tipo, che guarda indietro a quello che si è fatto. Non è una questione di fare un punto, di guardarsi indietro, però di davvero tracciare un percorso e rintracciare, direi, il filo di un discorso in qualche modo. È un anno particolare perché è l'ultimo anno la cui direzione artistica sarà curata da me e da Fabrizio Arcuri, ed è un anno particolare per la situazione pandemica e di emergenza sanitaria nella quale ci muoviamo, che ci pone tanti interrogativi, questioni, modalità, tracce diverse. Nonostante tutto, direi, nonostante aver riscritto il festival decine e decine di volte, da che pensavamo di non poterlo fare a farlo solo online, invece a ritrovarsi nella possibilità di riconvocarci insieme, di rinvitare il pubblico a esserci, abbiamo una possibilità diversa, diciamo, di stare e di articolare in qualche modo, di ripassare un po' le nostre tappe fondamentali, ma in modo diverso. Quindi sempre la Pelanda al Mattatoio di Roma come sede principale. Per la seconda volta, il primo weekend di inaugurazione sarà anche quest'anno nel Palazzo dell'Ex Gil, sul quale operiamo dallo scorso anno una strategia piena di tentacoli e alleanze sulla risignificazione di uno spazio così problematico. Per chi non lo sapesse, era un palazzo costruito per Gil, è l'acronimo di Gioventù Italiana del Littorio. Confermiamo le nostre presenze, insomma, in uno dei partner più storici del festival, che è il Teatro di Roma, con lo spettacolo di chiusura al Teatro Argentina, e con il Teatro India completamente spalancato all'accoglienza di tempo libero, la sezione del festival dedicata alla trasmissione di pratiche e saperi. Chiaramente la modalità è diversa, non lavoriamo più come siamo soliti fare per accumulo, stratificazione, vicinanza, prossimità, ma cerchiamo un altro tipo di prossimità, che è quella emotiva, che è quella politica, e prendiamo spazio. Anche questi spazi che ho appena elencato li abiteremo in modo diverso. Dalla Pelanda ci espandiamo anche a tutte le zone esterne del Mattatoio, a Gil ci espandiamo in tutto largo Ashang, largo antistante il palazzo. Cerchiamo di che questa distanza, questa attenzione in qualche modo, infatti forse direi trasformare un po' la distanza in un'attenzione al corpo e a tutto quello che gli sta intorno, allo spazio intorno, e per fare questo abbiamo bisogno di più spazio, quindi occupiamo più spazio, ci allarghiamo per stare comodi anche in questa dimensione così più rarefatta, e non rinunciamo neanche alla parte del festival che denominiamo ormai da qualche anno controra, dedicata alla musica. C'è una selezione di artisti veramente incredibile, fortunata, che va da Elena Colombi questa sera a Gil, a Felix Kubin, mitologico musicista tedesco alla Pelanda l'11 settembre, a Lala Ense, che è una rapper, trapper francese, che sarà qui a Gil domani. Quindi anche quello, sperimentiamo un altro modo di fruire la musica, inedito completamente per tutti e per Sordiade, che rinuncia alle sue famose feste. Quindi sperimentiamo, e anche nella complicità con gli artisti e le artiste, che chiaramente ripensano i loro set, ripensano i loro concerti, sapendo che avranno davanti un pubblico seduto che non può ballare, che dovrà, diciamo, godere e trasmettere questo piacere diversamente rispetto a quanto è abituato. Quanti saranno nel complesso gli eventi? Parliamo, diciamo, di un numero più o meno stabile rispetto alla nostra abitudine, quindi più o meno sono 35 progetti tra incontri, spettacoli, performance itineranti, film e appuntamenti musicali. Il numero non è diminuito nonostante le difficoltà che ci troviamo, come tutto il nostro settore, ad affrontare, data la riduzione delle capienze, mancati incassi e l'incertezza generale del tutto, ma mantenere il numero così per noi elevato era una garanzia, appunto, in queste riduzioni di capienze, di mantenere la conversazione attiva a comunque un numero importante di persone. Ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire il programma? Certo, www.shortheater.org con la doppia T, e lo stesso vale Shortheater per i canali Facebook e Instagram. E una precauzione importante quest'anno: la biglietteria è praticamente esclusivamente online per evitare assembramenti inutili, quindi vi invitiamo a, sul sito tutto è spiegato benissimo, e Viva Ticket è il nostro partner di biglietteria. Shortheater, 15ª edizione a Roma dal 4 al 13 settembre 2020, un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Francesca Corona. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, un abbraccio, ciao.

po' esagerato forse, perché si è fatto sentire per tutti quanti quanto sicuramente questa emergenza sanitaria porta tanto anche di questo pensiero che si cela dietro alla grande madre, che è colei che genera ma è anche colei che distrugge. Il festival sarà nelle giornate dell'11, del 12 e del 13 di settembre nel quartiere Tempio, che è un quartiere del centro storico di Modena, quartiere 1, come l'anno scorso, abitando un po' tutti gli spazi degli artigiani, dei commercianti, di chi ha messo a disposizione le proprie mura per ospitare le fiabe del festival. Tre giornate intense, ogni giornata inizia con una conferenza sul tema e poi a seguire ci saranno performance, concerti e fiabe, tantissime fiabe. Quali sono gli orari del festival? Venerdì cominciamo in orario aperitivo e andiamo avanti fino a mezzanotte. Sabato cominciamo all'ora di pranzo, poi avanti fino a mezzanotte, e domenica invece cominciamo dalla mattina con la colazione, il brunch, il pranzo e poi tutte le iniziative degli eventi culturali. Il festival fa riferimento come punto di ristoro a Filatorio, che è la sede dell'Associazione Festival della Fiaba, e lì ci sarà la biglietteria, l'info point e il ristorante della caffetteria. Quanti sono i lavori presentati in questa edizione? A livello proprio di performance ce ne sono tre, una il venerdì, una il sabato e una domenica, che sono Il racconto di Frankenstein a cura di Chaika Teatro, A Mamma, che è una performance di Elena Noia e Battistina Casula di Archeo Teatro sulle Domus de Janas Sarde, e domenica un concerto a cura di Valentina Lutti. Poi ci sono i miti raccontati dalle anziane, formate da Michele Collina, proprio per dare una voce antica al mito e farla in questo modo differenziare dalla fiaba, che sono due per ogni serata, le tre conferenze e poi una valanga di fiabe. Insomma, di fiabe ce ne saranno almeno 10 a sera, una trentina di fiabe che daranno la possibilità anche con queste restrizioni di spazio alle persone di seguirle il più possibile. Come era nato questo festival? Qual è la sua storia? Ma è una bella storia, guarda, una storia che parla di un sogno che si realizza e si concretizza data la volontà di un gruppo di persone che ha deciso di mettere in campo le proprie competenze, le proprie professionalità. Io una decina di anni fa ho cominciato ad appassionarmi alla fiaba, in modo particolare agli archetipi e alla simbologia che la fiaba della tradizione popolare porta, e leggendo i testi della Von Franz, Jung, eccetera, ho cominciato a pensare che oggi, così come 10 anni fa, la fiaba ha una collocazione assolutamente sbagliata, assolutamente non coerente con quello che in realtà porta. Infatti si rivolge prevalentemente a un pubblico di bambini, cioè un pubblico legato alla giovinezza, all'infanzia. In realtà la fiaba è nata in origine per i grandi, tra i grandi, con una condivisione di esperienze pratiche della vita che il bambino ancora non ha fatto. Certo è che nell'Ottocento hanno ben pensato di placare uno strumento che è uno strumento di grande potenziale di rivoluzione e di stimolo, di libero arbitrio per le persone, e quindi di mettere queste meravigliose storie nella bocca di una nonnina circondata da bambini. Hanno cambiato i finali, hanno fatto diventare matrigne tutte le mamme cattive, e così hanno deciso che le fiabe erano un genere per l'infanzia, perché insegnavano ai bambini a vivere. In realtà, purtroppo, insegnare qualcuno a vivere non è possibile, è la vita che ci insegna a vivere attraverso l'esperienza, e la fiaba non fa altro che creare un momento di condivisione, di compassione, di emozione, di scambio tra chi racconta e chi ascolta, attraverso un'epifania che diventa collettiva nel momento in cui c'è un narratore che condivide queste storie che sono apparentemente impersonali, ma in realtà hanno molto a che fare con ognuno di noi, singolarmente ognuno di noi. Avete creato un archivio con tutte le rappresentazioni ospitate? Sì, abbiamo un archivio legato alle varie edizioni, perché ogni edizione ha un tema, e quindi abbiamo un po' fatto una suddivisione, diciamo così, delle fiabe che si sono un po' più avvicinate a un tema piuttosto che a un altro, ma in realtà ti dirò che abbiamo anche visto, facendo questo esercizio di stile e anche esercizio di memoria, che ogni fiaba racconta sempre la stessa storia e quindi va sempre bene in ogni occasione. Poi magicamente, come succede durante l'anno al Filatorio, che appunto è la sede dell'associazione Festival, e oltre alle giornate di festival che ci sono una volta all'anno, ospita per tutto l'anno delle fiabe che vengono narrate dopo la cena, succede sempre che chi arriva e ascolta quella fiaba ha una forte coerenza, un forte legame con quello che quella fiaba sta raccontando in quel momento, che sia un lutto amoroso, che sia una nascita, che sia una decisione da prendere, quindi c'è sempre anche questo velo di sincronicità e di alchimia che lega la fiaba, che diciamo che dall'archivio ci fa spaziare in qualcosa che è un po' più ampio, ecco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul festival? Sì, molto volentieri. Allora, ci trovate online sul sito, chiaramente www.festivaldellafiaba.com. Siamo anche su tutti i social, Instagram, Facebook, abbiamo un canale YouTube. Per quanto riguarda le prenotazioni, quest'anno è importantissimo perché vanno prenotati anche gli eventi gratuiti come le conferenze e i meeting, che di solito erano a ingresso libero, quest'anno vanno anche quelli prenotati. Per prenotare c'è un unico modo ed è telefonare a questo numero, che è il 328-467-3428. Lì c'è una signora gentilissima che risponde, prende le prenotazioni ed è l'unico modo per garantirsi un posto per vedere una fiaba, ascoltare la conferenza o assistere a un evento. Per quanto riguarda i social Instagram, ci siamo sia come Festival della Fiaba che come Filatori, visto che Filatori è il punto di ristoro, lì si possono vedere anche i menu che vengono proposti per i pranzi, le cene, gli aperitivi che ci saranno durante il festival. Settima edizione del Festival della Fiaba a Modena dall'11 al 13 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Nicoletta Giberti. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a te, a presto. Con Marta Paganelli, autrice, attrice dello spettacolo Mare Giallo, in prima nazionale al Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, giovedì 10 settembre 2020. Marta, ben trovata. Ciao, ciao a tutti e ben trovati. Ce lo presenti questo lavoro? Questo è uno spettacolo che è nato in realtà in tempi, come dire, non sospetti, e cioè al ritorno da un viaggio ai Campi Farauli che ho fatto nel 2019, e sarebbe dovuto nascere definitivamente a marzo del 2020, ma come immaginate, insomma, quello che è successo e quindi niente, debutterà di fatto in forma definitiva adesso, quindi questo 10 settembre. Com'è nato? Da una collaborazione con il Teatrino dei Fondi, per cui Enrico Falaschi, il direttore, mi disse: ma farai questa esperienza in Algeria, nei Campi Sahrawi, ma ti andrebbe di tenere un diario e di vedere qual è la tua esperienza laggiù? In realtà ho incontrato un desiderio che già avevo dentro di me, ho tenuto questo diario e poi questo diario si è trasformato di fatto in un diario del prima e del dopo, nel senso che nel diario ho raccontato appunto quello che mi è successo, non soltanto a livello di esperienze concrete, ma anche a livello di viaggio, diciamo, interiore poi fatto in quei luoghi e al ritorno da quei luoghi. E di fatto lo spettacolo poi è diventato, come dire, una narrazione del prima e del dopo, di che cosa vuol dire sentire il bisogno di partire, di lasciare un pezzetto di sé, andare a conoscere un'altra cultura, una cultura che verso, nei confronti della quale abbiamo sempre tendenzialmente avuto un atteggiamento in maniera più o meno consapevole, diciamo colonialista per così dire, o comunque di soccorso, e scoprire poi invece che la relazione che si crea con le persone laggiù è molto più complessa, e quindi partire prima, rendersi conto che prima si hanno tutte delle costruzioni mentali, teoriche, che poi grazie al viaggio vengono decostruite e ti permettono realmente di viaggiare in tanti sensi, innanzitutto dentro di te, dentro dei preconcetti che poi abbandoni, ecco. Che forma hai voluto dare teatralmente a questo diario? È un monologo, anche se poi è un monologo-dialogo, in che senso? Insieme a me in scena c'è un percussionista, rumorista, e la musica e il suono fanno parte di fatto dello spettacolo, la musica diventa un vero e proprio secondo personaggio che fa da contrappunto alle parole, quindi insieme alle parole in realtà c'è un continuo accompagnamento sonoro che crea paesaggio, descrive l'emozione, specifica, diciamo, le tematiche, crea veramente un mondo immaginifico intorno alle parole. E quindi sì, questa è la forma. Ci sono io con la mia valigia di cartone, per così dire, neanche troppo per così dire, il musicista con una serie di strumenti che in realtà sono alcuni convenzionali, altri di recupero, cercando di riprodurre un po' quello scenario sonoro che si potrebbe anche ritrovare nei Campi Sahrawi, quindi strumenti fatti con bidoni, lamiere o oggetti di recupero, appunto, cose di questo tipo. Quindi un dialogo, di fatto, un monologo dialogato con la musica. Che impressioni ti ha lasciato questo viaggio? venite a vedere lo spettacolo e ve lo racconterò. No, scherzi a parte, davvero una delle cose di cui parlo nello spettacolo è proprio perché ho scelto di partire. E le impressioni poi che sono nate dopo sono state totalmente diverse. È stato spiazzante tornare, rendermi conto di quanto appunto sia partita con una mentalità di aiuto, no? E di io vado a dare qualcosa a qualcun altro, io devo mettermi a disposizione di ciò che ho bisogno di me. Sì, certo, c'è tutta questa componente. Nei campi sahrawi vivono persone in una estrema povertà e in condizioni anche ambientali e di vita estreme, eccetera. Però scoprire come di fatto la cooperazione abbia a che fare con tutt'altro e quanto poi una volta arrivata laggiù io abbia avuto uno shock, direi, culturale che mi ha portato di fatto a rimettere in discussione tantissimi dei miei atteggiamenti nei confronti del rapporto con l'altro, dell'insegnamento, del rapporto col teatro anche. E quindi è stato meravigliosamente traumatico e sorprendente e scioccante, ma in senso positivo, nel senso che mi ha scosso, direi, mi ha risvegliato dal torpore anche. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più su questo tuo lavoro? Potete trovare tutte le informazioni sulle pagine Facebook del Teatrino dei Fondi o sul sito. Un'altra pagina a cui fare riferimento è quella della Ribalta Teatro, che è una compagnia con cui collaboro, che collabora con il Teatrino dei Fondi di Tivillus. E quindi ci vediamo il 10 settembre alle ore 21:30 a San Miniato Basso, al Teatrino al Pinocchio. Mare Giallo, un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Marta Paganelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a voi, a presto. Con Boisca per presentare Hack Meeting 2020 dal 10 al 13 settembre 2020 al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma. Ben trovato. Beh, grazie a voi per avermi chiamato. Prenderò allora anche l'onere di introdurre magari anche Hack Meeting. Che cos'è, visto che si tratta di un evento che non nasce assolutamente quest'anno, ma ben 22 anni fa a Firenze, e si tratta di un incontro, come dice la parola, un incontro della comunità hacker, che è una comunità molto particolare, che ha delle sue radici nei movimenti, diciamo, culturali e controculturali underground, e che propone sostanzialmente un approccio alla tecnologia che non è un approccio che la esalta e che la mistifica, ma un approccio appassionato, divertito, curioso e anche critico, che sappia tenere quindi insieme una lettura della tecnologia all'interno della società, non avulsa da questa, con anche poi una passione, un divertimento che penso che chi partecipa all'evento riconosce ogni volta. E sono tre giorni, quest'anno quattro giorni, di campeggio libero in cui si fanno tanti seminari, in cui si sta insieme, in cui insieme si portano avanti i progetti e si respira veramente un'atmosfera di autogestione. Un'atmosfera di autogestione che quest'anno, nel 2020, non serve che vi spiego il perché, non è stata davvero semplice da mantenere, perché insomma la situazione pandemica ha richiesto tantissime attenzioni, tant'è che voleva essere a luglio l'Hack Meeting e a luglio non è stato, ma siamo riusciti a riorganizzarlo appunto il 10-13 settembre, quindi trappissimo, al Forte Prenestino. Avete individuato un tema o dei temi centrali per questo incontro? La discussione sul tema è una discussione che ogni anno portiamo avanti, nel senso che ci sono sempre degli spunti che si vogliono dare, ma è anche vero che poi in fondo l'Hack Meeting è molto fatto da chi lo attraversa e chi lo vive, quindi diciamo che i ragionamenti che si portano avanti non caratterizzano l'evento fino in fondo, perché sarebbero comunque un'espressione parziale, mentre Hack Meeting è senz'altro un momento estremamente plurale. Detto ciò, durante la pandemia quali sono stati i temi dominanti? Un po' credo che lo si possa immaginare, visto che la tecnologia è stata glorificata, no? Adesso magari ce ne dimentichiamo, ma c'è stato un momento in cui si pensava che con un'app la pandemia sarebbe finita il giorno dopo, e chiaramente così non poteva essere. Adesso anche su questo ovviamente si è fatta retromarcia. Hackmeeting è portato avanti da molti soggetti, diciamo, singoli, ma anche da delle situazioni laboratoriali che spesso trovano spazio all'interno di centri sociali autogestiti, che sono gli hack lab, che sono dei luoghi dove si fa hacking, inteso anche come una condivisione orizzontale delle conoscenze, che quindi rompa i meccanismi di potere impliciti in ogni sapere. E questi hack lab hanno fatto un comunicato congiunto, molte riflessioni, dei dibattiti che secondo me sono stati piuttosto interessanti, e in questo senso si è riflettuto molto ruolo che le tecnologie stavano giocando all'interno della pandemia, sull'esperienza quindi per esempio della dematerializzazione degli incontri, che in un modo o nell'altro abbiamo credo vissuto tutti e tutte, no? Con lo smart working, con gli incontri anche amicali, in videoconferenza, con la famosa app Immuni. Quindi questi sono sicuramente dei temi che ci sono stati come riflessione e che inevitabilmente si ripercuoteranno. Mi viene in mente così, per dire, di un modo anche non subito diretto, ma comunque concreto, in cui queste riflessioni si possono riversare, un seminario, io credo molto interessante, che ci sarà tra i tantissimi, che per esempio parla del tema della voce artificiale a cui ormai siamo sempre un po' più abituati, no? Il navigatore, Siri, gli assistenti, ma un po' meno in Europa, molto di più in Oriente, anche il tema della voce artistica, artificiale, i cosiddetti vocal idol in Giappone, e quale ideologia c'è dietro all'idea che si possa andare ad un concerto di una voce artificiale. Ecco, questi secondo me sono spunti dalle riflessioni pregresse che si riversano dentro Hack Meeting, ma poi dentro Hack Meeting c'è anche tantissimo altro. Più o meno come saranno strutturate queste quattro giornate? Le giornate saranno organizzate così: il giovedì si parte dalla sera e quindi sarà un giorno un po' così di riscaldamento, si parte dalla cena, si inizia a montare il campeggio libero e poi ci sono già alcuni seminari. Da venerdì mattina in poi invece le giornate sono organizzate così: praticamente per tutto il tempo si susseguono seminari che sono in tre, diciamo, sale, anche se in realtà saranno all'aperto per motivi legati al contagio. Ci saranno delle sale in cui ci sono seminari più o meno in grande continuità dalla mattina alle 11:30 fino alla notte sostanzialmente, questo per il venerdì e per il sabato, ma oltre a questi ci sono anche delle altre situazioni che sono quelle per esempio dell'hub space, ovvero del luogo in cui invece di seguire dei seminari semplicemente si sta insieme e si possono portare avanti dei progetti, si possono a volte dalle discussioni nascere nuovi seminari, quindi è un evento molto in divenire, è assolutamente normale, succede ogni anno che all'ultimo momento parta un seminario nuovo che è nato magari dal fatto che confrontandosi ad un tavolo alcune persone hanno espresso interesse ad un tema che qualcun altro era in grado di spiegare, e così si aggiunge un seminario in più al programma all'ultimo secondo e il seminario inizia. Quindi anche questi momenti fanno parte di quello che è Hack Meeting. I seminari trattano sia le modalità che gli argomenti più disparati, perché ci sono magari momenti più pratici, laboratoriali, di autoproduzione per esempio, in cui si può fare autocostruzione di antenne, ma anche mettere le mani ad un sito web, oppure si potrebbe fare discussione su dei libri, quindi momenti più di dibattito, o momenti di spiegazione più frontale, in cui magari vengono spiegate tecniche informatiche, ma anche tantissimi seminari che con l'informatica non c'entrano assolutamente nulla. Per tutte le informazioni c'è un sito internet. Il sito internet è it.hackmeeting.org e lì potete trovare tutte quante le modalità, tutte le informazioni sul programma. Tenetelo d'occhio perché il programma è già molto fitto, ma sicuramente si andrà a riempire ancora di più. Il consiglio che diamo sempre a chi sta venendo per la prima volta ad Hack Meeting è quello non tanto di segnarsi un seminario che gli piace e venire a quell'ora, ma di cercare di stare per più tempo lì e viversi l'evento anche al di fuori del singolo seminario, perché come diciamo sempre Hack Meeting non è una conferenza, è un incontro. Hack Meeting 2020 a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 al 13 settembre. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Boisca. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima.